Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti ascoltatori, 7:34 minuti, ben ritrovati, un nuovo buongiorno del weekend su Radio 24 con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, cominciamo tra poco con una lettura dei giornali di oggi, una veloce rassegna stampa fino al GR delle 8 e poi i nostri approfondimenti, i nostri contatti, se volete da subito interagire con noi in tempo reale 349-238-6666, l'SMS, ma siamo anche su Facebook, la pagina Si può fare trattino Radio 24 e l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Allora cominciamo subito con i giornali di oggi, vai! E allora, i giornali che sono pieni di notizie dall'estero, cosa che non capita spessissimo per i giornali italiani, ma insomma l'avvicinarsi delle elezioni americane martedì prossimo, gli ultimi sondaggi, sul fronte della guerra all'ISIS in Iraq ci sono notizie, ma anche e soprattutto quello che è accaduto in Turchia con l'arresto di alcuni deputati filocurdi. Sono questi i temi principali che dominano le aperture dei giornali di oggi. Per esempio Corriere della Sera, sondaggi, i timori di Hillary, questo è il titolo principale. Rilevazione della CNN, dice la Clinton è sotto il quorum dei 270 grandi elettori, ma il rivale Trump è a 204, anche se starebbe, secondo questi sondaggi, accorciando le distanze. Beyoncé in campo per la candidata democratica, quindi vabbè, insomma, continuano anche gli endorsement di personalità che possono più o meno influenzare l'esito del voto. Approfondimenti, anche Repubblica per esempio titola su questo: USA, Hillary in calo, la fuga dei giovani è l'ultima paura, millennials delusi erano la base democratica. C'è un sondaggio della CNN pro Trump, per la prima volta la candidata sotto la soglia di 270 elettori. Repubblica quindi mette l'attenzione sulla questione dei millennials, adesso vedremo di cosa si tratta, il voto dei giovani che sembrerebbe diciamo in partenza propendere per la Clinton, ma più della metà dei giovanissimi che hanno 30 anni, poco più di 30 anni al massimo, non andranno a votare, più della metà, e quindi potrebbero venire a mancare voti per la Clinton. Così anche il Messaggero: Clinton non ha i 270 grandi elettori, ultimo brivido sul voto americano. Altri titoli, poi leggeremo un po' gli approfondimenti. Arresti in Turchia, l'Europa accusa democrazia ferita, questo è l'altro titolo del Corriere della Sera. Anche Repubblica: Istanbul, lettere dal carcere, noi scrittori per la libertà. Cosa succede? Che in Turchia c'è stato un altro giro di vite, sono stati arrestati 12 componenti del partito HDP, partito pro-curdo, tra di loro anche i leader del movimento Demirtas e Yuskedag, militanti dell'HDP che poi hanno tentato l'assalto alla stazione di polizia di Diyarbakir. L'Unione Europea parla di democrazia compromessa. E questa è una notizia che c'è su tutti i giornali, naturalmente. Vediamo, cominciamo a leggere qualche approfondimento su questo. Per esempio, intanto chi sono le persone che sono state arrestate in Turchia? Sono 12 deputati del partito HDP, appunto, partito filo-curdo. I curdi sapete che hanno questo che è un partito legale, eletto non democraticamente e che formalmente, anzi, ripudia la violenza portata avanti dal PKK, che invece è il partito armato dei curdi, una minoranza che in Turchia si è scontrata da sempre con i governi, anche dal punto di vista di una vera e propria guerriglia e di azioni di terrorismo. Però ripetiamo, questo è un partito democraticamente eletto. Ieri Erdogan, con l'accusa di terrorismo, ha fatto arrestare 12 di loro. Il leader Demirtas dal carcere ha promesso, scrive il Corriere, continueremo la nostra lotta. Ma la carriera di questo ex ragazzo prodigio, 42 anni, avvocato, fondatore di Amnesty International a Diyarbakir, sembra volgere al tramonto. Lui, che era riuscito nell'impresa di portare i curdi fuori dal loro isolamento nazionalista e attirare i voti dei laici, si è poi trovato stretto tra due fuochi. Il PKK, cioè il partito armato dei curdi, che chiedeva risultati, nel senso dell'autonomia delle zone curde, e il governo, che invece ai curdi gli ha sempre fatto la guerra. In questa morsa è rimasto stritolato Demirtas, il leader dei curdi, che adesso è in carcere. Alcune opinioni che vengono dalla Turchia, per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, le leggo, sono per esempio quella, anzi, cioè le frasi riportate in questo caso sono del presidente del gruppo all'Europarlamento del Partito Popolare di Angela Merkel, Manfred Weber, 44 anni, presidente del gruppo al Parlamento del Partito Popolare al Parlamento Europeo, dice: ciò che sta accadendo in Turchia è una vera tragedia. Sono stati arrestati dei deputati curdi con l'accusa di terrorismo, ma qui è cruciale che noi discutiamo con i nostri amici turchi la definizione di terrorismo. È importante ricordare che la Turchia non è un paese pregiudizialmente nemico della Turchia, anzi è stato stretto un accordo anche di recente con la Turchia, e in Germania ci sono tantissimi immigrati curdi. Cos'è il terrorismo, dice però Weber? Lo è difendere i diritti di una minoranza, i diritti fondamentali di migliaia di persone espulse da settori dello Stato? No, per noi non lo è, e non possiamo neppure concordare se si definisce terrorismo tutto ciò che è contro Erdogan. Poi, invece, dicevamo, voci dall'interno della Turchia, come quella di Elif Shafak, 45 anni, scrittrice, che scrive, intervistata dal Corriere: i deputati sono stati democraticamente eletti, 6 milioni di persone hanno votato per loro, ora questi cittadini penseranno che il loro voto è stato rubato. Questo è un grosso colpo alla democrazia e non aiuterà nessuno. Ma dopo il fallito colpo di Stato, il 15 luglio sono state arrestate quasi 40.000 persone, 100.000 hanno perso il loro lavoro. Non è diventata una caccia alle streghe la domanda? E in effetti il colpo di Stato fallito, dice Shafak, la scrittrice, è stato orribile. Lo condanno senza se e senza ma. È comprensibile che il partito di governo di Erdogan voglia punire i colpevoli, ma quella che sta conducendo è una purga di massa in ogni settore della società. Migliaia e migliaia di persone hanno perso il lavoro. La polizia si è accanita particolarmente su due categorie, giornalisti e scrittori. Gente, dice lei, che non avrebbe mai appoggiato il colpo di Stato. Cioè, a dire queste purghe, tra l'altro così estese da far pensare, questi arresti così estesi a far pensare a delle vere e proprie purghe, forse poco hanno a che fare con il fallito colpo di Stato, che anche una leader come questa scrittrice democratica condannano senza se e senza ma. Però questi, appunto, arresti di massa, in questo caso gli arresti dei deputati democraticamente eletti del partito filocurdo, non si possono configurare come una giusta reazione al colpo di Stato. Siamo lontani anni luce, ma stiamo in un altro terreno. E quale terreno lo capiremo più avanti, forse, ma insomma, per qualcuno è già chiaro quello che sta succedendo, e lo abbiamo appena detto. Allora, invece, torniamo, restiamo sugli esteri. Anche il Sole 24 Ore, stavo guardando gli altri giornali che si occupano in prima pagina di questa notizia, scrive chiaramente con Alberto Negri: Erdogan taglia i ponti con l'Europa e l'Occidente. La democrazia è un tram, va avanti fino a quando vogliamo noi, poi scendiamo, ha detto tempo fa Erdogan. La Turchia è in guerra dentro e fuori, non solo con le armi ma anche con le idee. E va bene, questo è il commento di Alberto Negri sul Sole 24 Ore. Ma dicevamo, l'altro titolo adesso su cui vale la pena leggere qualche approfondimento è la corsa alle elezioni americane. Martedì prossimo si vota, dicevamo i giornali parlano di sondaggi in calo per Hillary Clinton e del fatto che, come scrive Repubblica, c'è la fuga dei giovani come ultima paura, come ultimo spettro per Hillary Clinton, già minacciata seriamente dallo scandalo delle email, le sue email che sono state scritte quando era sia segretario di Stato sia presidente della fondazione Clinton, che proverebbero un conflitto di interessi perché insomma le persone che finanziavano la sua fondazione erano quelle che poi venivano favorite nel momento in cui c'era da prendere delle decisioni al governo da parte della Clinton, e Trump che torna ad accusare: se eleggete Hillary Clinton poi verrà incriminata e quindi ci sarà tutto un blocco, un impeachment, una situazione di blocco istituzionale. I nuovi allarmi per Hillary Clinton arrivano da diversi sondaggi, tra cui uno della CNN, che la danno sotto i 270 grandi elettori, una soglia necessaria per vincere. A provocare l'ultimo scivolone è in particolare, scrive Repubblica, il New Hampshire, considerato uno stato sicuro per i democratici e che ora è in bilico. Ma il vero questione è quella dei millennials, cioè degli elettori nati dal 1982 e il 1999. Scrive Federico Rampini, a quattro giorni dal voto il campus dell'Università di Columbia, che è noto come uno dei più liberal del mondo, sembra vivere una routine normale, indifferente all'ansia febbricitante della nazione. Nessun banchetto elettorale né per Trump né per la Clinton soprattutto, e quindi disinteresse che è confermato anche da alcuni sondaggi che dicono che solo il 41% di questi giovani è certo di andare a votare, cioè il 60% di questi giovani, sono tantissimi perché sono quasi 70 milioni di persone, quasi un terzo, pensate, dell'elettorato americano, 70 milioni su 208 milioni di elettori, ecco, più della metà di questo terzo di elettori giovani che avevano in qualche modo promesso che avrebbero votato per la Clinton, sembra che invece non vogliano andare a votare. Prosegue Rampini, in quegli stati dove è consentito il voto anticipato, la partecipazione della generazione millennials è in calo rispetto al 2012, un brutto segno per Hillary, che sulla carta gode di un netto vantaggio tra i giovani, ammesso che vadano a votare, in confronto a quattro anni fa e al 2008, quando i millennial furono una constituency cruciale per portare Obama alla Casa Bianca. Oggi hanno tutti raggiunto l'età del voto, quindi sono numericamente ancora più importanti. È la prima elezione nella storia in cui i millennials nati tra l'82 e il 99 eguagliano i baby boomer, che sostanzialmente sono i loro genitori. Potrebbero essere questi millennials a decidere l'esito del voto, ammesso che vadano a votare. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizio. Ascoltatori, stiamo sui giornali di oggi e l'altra notizia che quasi tutti i giornali in prima pagina riportano è insomma, la doppia questione giudiziaria che riguarda Facebook e il suo fondatore Mark Zuckerberg. Scrive il Corriere, il video di Tiziana andava tolto, Facebook al bivio, cambi strategia. Questo è il commento di Beppe Severnini. Tiziana sconfigge Facebook, scrive Repubblica. I giudici di Napoli, a proposito della ragazza suicida, ammette i video andavano rimossi. Anche altri giornali hanno il Messaggero, il titolo principale su questo Facebook sotto accusa per i post non rimossi, Zuckerberg indagato, ma la decisione non è solo quella dei giudici di Napoli, c'è anche quella dei giudici tedeschi che hanno indagato Zuckerberg per non aver rimosso i post filonazisti dopo molte segnalazioni. Leggiamo per esempio il commento di Beppe Severgnini, che dice: Facebook è un contenitore o il contenuto? Si occupa di telecomunicazioni o diventa comunicazione? È una tech company, cioè una compagnia appunto di telecomunicazioni, è una media company, cioè con una responsabilità sui contenuti non dissimile a quella di un giornale o di un canale televisivo. Facebook preferisce le prime risposte, ma l'evidenza, scrive Severgnini, spinge verso le seconde. Allora succede che alla domanda dei genitori di Tiziana di rimuovere i contenuti lesivi della sua dignità, un video hard che lei non voleva che venisse messo in circolazione, anche se lei era stata consenziente al momento, ma aveva chiesto a Facebook che venisse ritirato, Facebook si era rifiutata. E per quale motivo? Lo ricorda Severgnini, la società Facebook lamentava che il giudice avesse disposto un obbligo di rimozione con espressioni che suggeriscono un dovere di monitoraggio e un controllo preventivo da parte di Facebook. La società sostiene di non essere tenuta a rimuovere l'accesso ai contenuti senza che prima vi sia un ordine in tal senso emesso dalle autorità competenti, cioè da un giudice, e spiegava di doversi attenere al regime di responsabilità limitata prevista per gli hosting provider, regime che tutela non solo Facebook ma anche la libertà di espressione dei propri utenti. È proprio questo il punto: Facebook si fa scudo dietro la libertà di espressione degli utenti, che per lei è sovrana naturalmente, e quindi le procedure per rimuovere questi video spesso sono molto faraginose, complesse. Invece i giudici di ieri a Napoli hanno stabilito che la rimozione deve essere più rapida, più veloce, senza se e senza ma. Il garante per la privacy Soro lo dice chiaramente su Repubblica, intervistato: la rapidità è essenziale perché altrimenti quel contenuto viene rilanciato nell'oceano dei siti del mondo. Oggi, dopo questa sentenza, si riconosce che questa richiesta può venire dal singolo utente e solo se il gestore non soddisfa questa richiesta deve intervenire l'autorità giudiziaria. Quindi, secondo questa sentenza di Napoli, almeno in Italia si rovescia un po' i ruoli. Facebook è tenuto a rispondere positivamente alla richiesta di rimozione dei contenuti, se questo non avviene allora interviene il giudice e non il contrario. Che dire, altri titoli, altre notizie sui giornali di oggi. Andiamo a vedere per esempio Libero e Il Giornale hanno due aperture gemelle sul ruolo degli immigrati in Italia e sui costi che hanno per il nostro paese. Rubano case ai vecchi per darle ai profughi, pensionati italiani beffati. L'INPS si lagna, scrive Libero, perché ha le casse vuote ma mette i suoi appartamenti a disposizione dei richiedenti asilo. Intanto gli assegni dei lavoratori che hanno versato i contributi calano. L'accoglienza è la tassa più pesante, ci costa 4 miliardi di euro l'anno e nel 2017 aumenterà. Il Giornale, con la stessa notizia: rischio bancarotta per gli immigrati, servono 4 miliardi. Il governo ammette con questo ritmo di sbarchi nel 2017 occorrerà una manovrina. L'editoriale di Alessandro Saluzzi spiega la notizia e dice: anche il ministro Padoan ora lo ammette. L'invasione di immigrati è diventato un problema rilevante anche dal punto di vista finanziario. A questi ritmi la sostenibilità economica non è più garantita. Nel 2017 potrebbero servire 4 miliardi in più, una cifra per intenderci pari al gettito fiscale della famigerata TASI. I conti sono presto fatti. Un altro pezzo di questo commento di Sallusti, che dice: per raggiungere le nostre coste ogni immigrato paga tra i 5 e i 15 mila euro. Nel 2017 potrebbero sbarcare in Italia altri 200 mila disperati. Incassi per i criminali 2 miliardi, costo per noi 4 miliardi. E questo è un punto di vista. Poi naturalmente si potrebbe ricordare che oltre al costo dell'accoglienza poi ci sono i contributi che gli immigrati danno alla nostra economia, per esempio pagando attivamente quelli che lavorano, molti contributi previdenziali che già cominciano a essere una voce non da poco proprio dell'INPS, ma insomma questo è un altro discorso. Ma soprattutto la questione è come fare a fermare quella che Sallusti definisce un'invasione. Ma è un problema a cui nessuno in realtà è in grado di dare una risposta semplice, facile, no? Praticabile. Il Fatto Quotidiano invece si occupa di tutt'altro e si occupa della Leopolda a Firenze. Una Leopolda, la kermesse organizzata ormai da alcuni anni da Renzi a Firenze, tutta sottotono. E poi c'è un'altra notizia: Firenze è tutta una Leopolda e il questore proibisce di dire no. Succede che c'è l'avvio in tono dimesso, lontani fasti di un tempo, si intravedono i segni dell'incertezza del premier, tra le quinte della kermesse c'è perfino chi immagina il dopo Matteo se perde il sì, ma soprattutto, scrive il Fatto Quotidiano, la questura ieri ha negato il diritto di svolgere un corteo a favore del no al referendum costituzionale, organizzato da alcuni comitati cittadini. Il questore Alberto Intini, arrivato in città ad aprile, vietando questo corteo, scrive chiaramente: questa città è interessata dallo svolgimento di altre manifestazioni, tra cui la convention politica Leopolda, alla quale è previsto un notevole afflusso di pubblico e di massimi esponenti del governo. Quindi, conclude il Fatto, ai cittadini il corteo è vietato, questione di ordine pubblico. Dobbiamo chiudere? Sì, siamo giunti in chiusura della rassegna stampa, allora io vi lascio al giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo con Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi e buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Carlo, oggi Milano Monterosa piove, non oggi abbiamo... piove, mi ero preparato una risposta, sono contento, sono uscito, ho detto poi come quando... sei contento? No, sono contento di avere la risposta precisa, di solito c'è sempre questa ambiguità, dubbio, forse nuvolo, forse sole, forse pioggia, ah no, forse oggi nebbia, oggi è tutto molto oggi chiaro. Oggi piove. Purtroppo. Insomma, piovigina, piove un po', potrebbe anche smettere ovviamente durante la trasmissione, magari a un certo punto vi diciamo che è apparso il sole. Ma come sempre, questo è Milano e il nord, il centro nord, perché sappiamo il resto del mondo invece, sta meglio. Il mondo continua a stare meglio, continua giusto a stare meglio. Allora, ascoltatori, vi aspettiamo naturalmente 800 24 00 24 per raccontarci la vostra settimana, le vostre buone notizie nelle vostre città, nei vostri quartieri. Non dimenticate di illuminarci il sabato e la domenica anche voi con le vostre storie. E poi vi aspettiamo anche per giocare con noi. Allora, questa settimana la notizia è questa: smartphone e tablet più accesi in rete dei personal computer. Hanno superato gli accessi dei PC. Pazzesco, il 53% contro il 48% lo ha contato StatCounter, che da tempo fa questo conteggio, cioè monitorano le pagine viste, oltre 2 miliardi credo di pagine viste nel mondo, e insomma quindi ormai siamo connessi sempre più attraverso i nostri telefonini. Per me è una roba normale, perché in effetti il PC è il mio, a casa è rotto, cioè non ce l'ho più. Vedi, io invece no, devo dire che è un grosso cambio questo, perché è vero che la maggior parte delle persone ormai si collega a internet con il telefonino. Io effettivamente il telefonino non lo spengo praticamente mai, però io ho molta difficoltà, sono un inetto digitale, e quindi in realtà io per esempio addirittura WhatsApp lo uso da PC, cioè il motivo motivo per cui uso più WhatsApp dei messaggi normali è che WhatsApp posso averlo sul PC, quindi finalmente posso scrivere con la tastiera invece che con le dita sul il telefonino, che faccio sempre molta fatica e molti errori di ortografia. Però siccome noi siamo felici che il mondo è connesso, andiamo avanti, guardiamo felicemente verso il futuro, però siamo anche un po' preoccupati degli eccessi, delle esagerazioni, la gente che non si guarda più negli occhi perché c'hanno tutti gli occhi abbassati, abbiamo tutti gli occhi abbassati sul telefonino. Vi chiediamo di darci suggerimenti, cioè noi siamo qua per accogliere i vostri suggerimenti su l'abbiamo chiamato con un'espressione digital detox. Poi diranno: ma come usate l'espressione in inglese? Ma quando si parla di questa roba qua, l'America, la disintossicazione, sì, cioè, sì, quali sono i vostri trucchi, i vostri strumenti, questo che chiamo, perché a volte è semplicemente decidere di spegnerlo quando si dorme, che è forse il minimo. Però bisogna, ci sono anche imporsele, persone che si impongono 2 ore senza telefonino, un momento in cui io non rispondo ai messaggi, che ne so, cioè, ognuno avere ha le sue... ancora il tempo di guardare un tramonto, di commuoversi di fronte a qualcosa senza guardare lo schermo del telefonino. Lasciate, che so, Claudia, la nostra Claudia ha detto che lei quando va in palestra lascia il telefonino a casa, quindi sappiate che se la chiamate e non risponde è perché è in palestra. Poi c'è il fantastico mondo anche delle suonerie, perché questo va detto, un po' di anni fa spesso ci lamentavamo del fatto di queste suonerie aggressive che improvvisamente in metropolitana, adesso molto meno, non so se è nata l'era della vibrazione, però effettivamente si sente meno proprio in giro questo delle suonerie folli. È un chiaro indice del fatto che siamo in piena era di digital detox, quindi esatto, disintossicarsi. Quindi noi vi aspettiamo all'800 24 00 24 con i vostri suggerimenti per convivere serenamente, senza troppe ansie, con i vostri smartphone. Come sempre, chi ci dà la risposta più interessante si porta a casa i biglietti per la mostra di Escher al Palazzo Reale di Milano. Adesso iniziamo, ci occupiamo di pendolari, di sicurezza e trasporti, di treni, trasporti, tra poco. Insieme a te, che lavoro inutile, voglio indietro lo stipendio. Ti piace ballare, ti piace fumare, e fare l'amore, ma di amore non ce n'è. Mandiamo un saluto al nostro amico Omar Pedrini. Questi sono i Timoria con Treno Magico. Lo abbiamo anticipato, parliamo di treni, perché su quelli regionali della Lombardia arrivano i vigilantes armati. I vigilantes armati, i primi 2 agenti sono entrati in servizio giovedì scorso sulla linea Milano-Erba, ma la regione Lombardia e Trenord hanno in mente di ampliare questo piano sempre di più. E con noi l'assessore Alessandro Sorte, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto. Allora, partiamo da questo. Noi i pendolari sappiamo che hanno tanti bisogni, ne abbiamo parlato spesso, è una condizione difficile quella del pendolare ogni mattina. Vorrebbero tante cose, più caldo, più freddo, a seconda delle situazioni, treni più frequenti. Pulizia. Pulizia, eccetera, eccetera. C'è anche la sicurezza tra le priorità di chi viaggia sui treni, assessore? Ma Andreotti diceva... in manicomio ci sono 2 tipi di matti: chi dice di essere Napoleone e chi dice di risolvere i problemi dei pendolari. È chiaro che in questi... Lei è Napoleone? Ma guardi, no, mi metto nel... No, era uno scherzo, che... era uno scherzo, le chiedo scusa. Già che sono... Ma il problema è questo, che le aggressioni sono negli ultimi mesi esplose. La gente ha paura, donne, giovani, anziani, ha paura a prendere il treno. Ma io mi immagino, scusi assessore, certo, la faccio continuare, mi immagino la scena al mattino, no? Coi treni strapieni di persone, c'è posto in piedi per i vigilantes, è solo una battuta la mia, immagino che in certi orari coi treni vuoti, la sera forse, ci sia qualche preoccupazione in più. È paradossale, ma è proprio nelle fasce di morbida che il fenomeno si amplia, quindi quando nelle orari di punta questo tipo di esigenza paradossalmente delle guardie giurate armate non c'è. La sicurezza non è una competenza della regione Lombardia, quella dovrebbe garantirla il governo, dovrebbe garantirla lo Stato. Purtroppo noi abbiamo chiesto il potenziamento delle nostre forze dell'ordine, che ringraziamo per quello che stanno facendo. Dal governo zero risposte, abbiamo dovuto, tra virgolette, pensarci noi. Certo, questo forse potrà prevedere un piccolo rintocco del biglietto, ma io credo che il tema sicurezza non sia più rinviabile. Ancora l'altro ieri un controllore che stava facendo il suo lavoro, cioè stava cercando il biglietto a un immigrato, è stato aggredito, cioè questo non è più accettabile. Ma infatti sta toccando un punto fondamentale, che è la questione dell'aumento, che ha anche suscitato polemiche e richieste di chiarimenti, perché lei molto giustamente dice la sicurezza del paese non è una questione regionale, è una questione del Ministero degli Interni e dovrebbero occuparsene loro. Ugualmente verrebbe da dire la questione della sicurezza non è un extra nei treni, non è che io devo pagare il 5%, mi sembra che si parli del 5% in più per avere la sicurezza di non morire in treno, dovrebbe essere compreso nel biglietto base, o sbaglio? Guardi, io al netto di due o tre presidenti dei pendolari politicizzati le dico che il mondo pendolare per l'80% su questa proposta sta per il rincaro, un rincaro equilibrato. Sì, diciamo, sta per la sicurezza e ammette nel caso che ci possa essere un rincaro, non è che proprio ci tengono al rincaro. Sono già stati fatti anche dei sondaggi, chi prende il treno sa di che cosa stiamo parlando, perché a un certo momento della giornata, soprattutto verso sera, c'è da avere paura, questo non è più accettabile. Purtroppo la Lombardia sta da sola, nel senso che noi non abbiamo risposte e non abbiamo aiuti da nessuno. Senta, ma visto che la Lombardia fa da sola, ci conferma i numeri di quello che che abbiamo letto sui giornali? Cioè, i vigilantes adesso in servizio sono ancora pochi, però l'obiettivo è arrivare a 300 uomini a regime? Questo sarebbe l'obiettivo entro la fine del 2017. Noi, con un aumento però, mi scusi, il 15 novembre, facciamo un esperimento. Dal 15 novembre al 15 dicembre sulla linea Milano-Bergamo mettiamo 20 guardie giurate armate solo su questa linea e poi chiederemo al mondo pendolare: vi è piaciuto? È servito? Se sì, noi procediamo a mettere. Quindi farete una sorta di sondaggio con. Però questo prima di aumentare il biglietto o dopo? Assolutamente prima di aumentare il biglietto, perché magari non piace. Io credo che sia anche un modo nuovo di fare politica. Prima vi faccio vedere cosa significa. Vi piace? Benissimo, lo estendiamo a tutta la regione. Sì, se mi permette una battuta, è un po' nel senso che sicuramente gli piacerà. Qualcuno potrebbe dire che è un po' il metodo dei pusher, che la prima dose è gratuita, quindi vi piace e mo' pagate però. Sì, però voglio dire, è sempre meglio fare vedere questo progetto prima che non imporlo sulla testa. Ma questo assolutamente. No? Un sondaggio tra i pendolari. Poi chiaramente bisognerà dire anche quanto sarà l'aumento che eventualmente avete in mente di fare. Il 5% del biglietto potrebbe essere questo l'aumento. Anche qualcosa meno, quindi stiamo parlando di 2 euro, di 3 euro su un abbonamento mensile. Quindi è una cosa, ripeto, ragionevolissima. Senta, un'altra domanda che le voglio fare è questo, ma le guardie private, no? Cioè noi ancora in Italia non abbiamo molto la cultura diffusa, se non in alcune aziende private o di fronte a certe banche, alle discoteche, ma sono eccezioni. È giusto secondo lei che a garantire la sicurezza sui treni, che sono un luogo pubblico, ci siano delle guardie private? Come lo giustifica questa cosa? Allora, innanzitutto queste guardie giurate armate, perché sono armate, sono abilitate da un corso della prefettura di Milano. Dopodiché, ripeto, secondo me non è giusto, perché noi abbiamo chiesto innanzitutto l'utilizzo, il potenziamento delle nostre forze dell'ordine, ma questo sembra impossibile da ottenere e da qualche parte dovevamo incominciare. Penso che solo Regione Lombardia su 20 regioni d'Italia possa arrivare a fare un ragionamento così massiccio. Però tenete presente una cosa: di tutto il trasporto pubblico italiano, qui c'è il 35%, qui girano 2.300 treni al giorno. Quindi in realtà solo in Lombardia c'è il trasporto pubblico. Su ferro, ovviamente. Va bene, questa è la sua risposta. Senta, assessore, staremo a vedere, perché per ora, mi conferma, sono pochi i vigilantes che sono già entrati in servizio concretamente. Quanti sono? Sono una trentina, entro a gennaio arriveremo a una cinquantina. Mm. Senta, le faccio sentire una notizia che riguarda la Germania, riguarda come siano alimentati i treni del futuro in Germania. Senta. La introduciamo così. Allora, è stato presentato, ma entrerà in funzione all'inizio del 2017, un treno che va a idrogeno, che con un pieno fa 800 km e non emette praticamamente zero emissioni. Con un pieno di idrogeno, sottolineo, scusami. E questo, esatto, è la cosa del futuro, insomma, che però è già il presente praticamente in Germania. Ora, uno potrebbe fare la battuta dicendo: se le centraline che controllano le emissioni le fornisce la Volkswagen, siamo sicuri che il progetto funzionerà benissimo. I dati sono perfetti, tu dici, le emissioni, ma bisogna vedere le emissioni reali. Esatto, battute a parte, come sono alimentati i treni? Come andiamo noi in Lombardia con i treni? Ma abbiamo una piccola dose di treni diesel, poi c'è una piccola dose di treni elettrici, poi ci sono i treni, quelli più classici, ma voglio dire, dai, non lamentiamoci della nostra Lombardia. Abbiamo appena staccato un assegno di 200 milioni di euro per l'arrivo di altri 20 treni nuovi entro due anni, insomma. Ci chiedevamo come mai non abbiamo preso anche noi i treni tedeschi che non consumano niente, e invece ne abbiamo appena comprati per 200 milioni dei nuovi treni. Guardate, sembra una cosa banale, ma per farvi capire la burocrazia italiana, se oggi trovo 200 milioni di euro, tra costruirli e prima ancora la gara d'appalto ci vogliono tre anni. Esatto, cioè, quindi noi fra tre anni avremo dei treni che probabilmente in tutto il resto del mondo invece decideranno di avere dei treni che sbaglio. Speriamo di no. Noi sappiamo che il trasporto pubblico è sempre, io ho 32 anni, faccio l'assessore ai trasporti della regione Lombardia, sì. Dovreste farmi un monumento solo per e soprattutto fare un per il coraggio. Senta, ma a cosa andranno questi nuovi treni che state appena comprando? Cioè, l'alimentazione che avete scelto qual è? Cioè, a diesel, elettrici, come funzionano? Ma c'è un po' di tutto. Anche noi ci stiamo comunque buttando sulle nuove formule, anche di alimentazione. C'è un po' di tutto. Quelli a pedali? Quelli a pedali? No, va bene, dai, staremo a vedere. Intanto, grazie, assessore. Buon sabato all'assessore Sorte. Grazie. Ai trasporti. Io volevo fare una domanda molto stupida. Che sì, giustamente, visto che dobbiamo pagare noi per avere il vigilante sul treno, mi chiedevo: ma se io sul treno, su una tratta di pendolari, non vedo la guardia giurata, posso chiedere il rimborso? Perché no? 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo per commentare questa notizia. Vi ha convinto l'assessore ai trasporti della Lombardia con questa proposta che è già operativa, vigilantes armati sui treni per garantire la sicurezza dei pendolari, con un piccolo aumento del costo, il 5% circa del biglietto. E poi vi aspettiamo anche per giocare con noi, vi chiediamo i vostri suggerimenti per vivere serenamente una buona relazione con il proprio telefonico, la propria connessione. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Allora, ci sono un po' di messaggi, per esempio Buongiorno, sono pendolare dal 1981, ci scrive un ascoltatore. E complimenti, intanto. Complimenti, un record. Questa mi sembra l'ultimo dei problemi per i pendolari. Quindi, cioè, la domanda che facevi anche tu all'assessore, sì, con tutti i problemi che hanno i pendolari, ci chiediamo se la sicurezza è uno dei problemi. In realtà, ultimamente se ne sente parlare molto, e probabilmente dipende dagli orari di viaggio. È vero che spesso i pendolari viaggiano di giorno, ma ci sono anche pendolari costretti a viaggiare di notte quando è più pericoloso, oppure che rimangono in città e poi ritornano da dove sono venuti più tardi e hanno paura. A tanti pendolari basterebbero le obliteratrici funzionanti, dice un altro ascoltatore, che evidentemente ci tiene a obliterare, giustamente, certo, perché lui lo paga e vuole che lo paghino anche gli Beh, altri. Anche perché se ti beccano col biglietto non obliterato, poi ti possono fare la multa, e se c'è l'obliteratrice che non funziona, e l'unica che funziona è a 3 km dal tuo binario, quando arrivi in ritardo devi correre. Comunque c'è anche un bellissimo messaggino che dice: io non ho a casa il PC, ma ho la bandiera del PC. Così mi sembrava giusto. Gianfranco da Trani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno ragazzi, velocemente, io sono un piccolo imprenditore, una tipografia, sì, digitale, e ho riscontrato che l'overdose di tecnologie, e io sono per le tecnologie perché le utilizzo nell'ambito lavorativo, sì, portano a non far lavorare bene i dipendenti, vi spiego. Soprattutto a non far lavorare, forse, più che bene o male. Soprattutto a non far lavorare. Io ho provato a portare il mio cellulare all'interno del laboratorio. Sì. Erano più i tintilli, gli squilli di WhatsApp, delle varie applicazioni, i messaggini. La pretesa poi, e dell'altro grosso problema, del tuo interlocutore che ti manda tutti questi messaggi, è che ogni tanto ti dicono: ma non hai visto il messaggio che ti ho mandato? Dove? Su WhatsApp. Ah, scusate, io... sì, perché ormai la notifica di un messaggio è, c'è l'ansia da, sì, notifica, no? Cioè, l'ha letto, perché non mi risponde? Passano 2 minuti e sembra che sia passato 2 ore. Esatto, perciò la mia considerazione è che l'overdose di queste tecnologie, sì, sì, fa generare la convinzione di chi le utilizza che sono connessi con tutti. In realtà distacca dal mondo reale. Vabbè, però questa è la diagnosi, Gianfranco. Noi vogliamo dei suggerimenti, dei consigli per... Dei trucchi, come fare per riuscire a convivere serenamente, positivamente con gli smartphone. Tu hai qualche suggerimento da dare? Io, come Carlo, ho scaricato WhatsApp sul computer, perciò con la tastiera rispondo nel momento, vedi, in cui sono davanti al PC per fare il mio lavoro. Perfetto. Leggere le mie mail, rispondo anche a WhatsApp come se fosse un'altra pagina di posta elettronica. Quindi l'hai tolto dal telefonino, hai risolto così. Ho risolto così. Va bene, Gianfranco, grazie mille. Grazie mille. Buona giornata. E questo è un suggerimento: usare di più, fare il contrario di quello che sta succedendo, cioè tornare al PC per alcune cose almeno, no? Sì, bisogna limitare quello che c'è sullo smartphone. Nel senso che ci sta di metterlo solamente su PC e di rispondere solamente da PC, dipende però, se poi dopo stai comunque 24 ore davanti al PC, allora è quasi peggio, perché oltre ad essere sempre connesso non ti puoi manco alzare dalla sedia. Paolo da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io voglio intervenire in merito al discorso dei vigilantes che ho sentito un attimo fa sui treni delle Ferrovie Nord. Sì. Allora, volevo dire una cosa. Innanzitutto, fa poco testo l'intervento dei pendolari, in cui dicono che sono più importanti altre cose. Gli episodi di violenza non avvengono nei momenti di picco, naturalmente, perché qualsiasi malfattore sarebbe subito individuato e magari acciuffato, ma avvengono nei momenti di morta, quindi di conseguenza certi pendolari sui treni non ci vanno nei momenti in cui avvengono, certo, le aggressioni. In seconda cosa c'è un aspetto: le aziende sono comunque aziende che hanno un conto economico, purtroppo, e non entriamo nel merito perché accadono queste cose, ma se l'azienda ha un conto economico deve fare una scelta: o l'azienda, come spesso accade, se aggiunge i servizi chiude in rosso e paga la comunità attraverso una tassazione maggiore, oppure applica un leggero incremento sul biglietto e pagano solo gli utenti che usufruiscono dei servizi. Mi viene da pensare, il fornaio di Lorenteggio che non prende mai il treno non dovrebbe domani pagare una tassa superiore perché c'è vigilante sul treno. Quindi questo sia, voglio dire, credo che non ci sia via d'uscita, dobbiamo solo scegliere: o pagano alcuni oppure pagano tutti con le tasse. Certo, è questa la scelta. È molto giusto quello che dice, è che in realtà forse dovrebbero pagare tutti, perché in realtà io magari non sono un pendolare, però la sicurezza nelle stazioni riguarda anche me, perché per esempio vado a prendere mia mamma in stazione, quindi non prendo il treno, non ho il 5% in più da pagare, però usufruisco anch'io della sicurezza, che credo che sia un bene comune. Poi entriamo nel merito perché accadono queste cose. Io viaggio non sui treni, mi viaggio sui autobus, perché faccio rappresentante dei poveri, non potendo andare in macchina, giro città con gli autobus. Ho fatto il mio bel abbonamento e sto 4-5 ore al giorno sui tram e sui bus di Torino. Beh, sì, voglio dire, l'evasione è quasi totale. il grosso sono gli extracomunitari, ma non per una discriminazione, perché gli abbiamo noi insegnato con il nostro finto buonismo le best pratiche. Nessuno paga per certi aspetti. E quando vengono contestati, i controllori, a parte già, voglio dire, le tensioni, le risse, i spintoni e quant'altro, scrivono la loro bella schedina di contestazione. Quando questi controllori scendono dal treno, l'altra comunità di turno prende il pezzo di carta, lo appallotta e lo butta via. Questo è quello che accade. Va bene, di questo è quello che accade, in effetti anche questo accade. Grazie, grazie anche a questo ascoltatore. Voglio dire anche un'altra cosa: ci sono, c'è stata una sequenza di reazioni agli SMS sulla questione del treno all'idrogeno, perché come sempre ci sono quelli che non si fidano, perché dicono che produrre l'idrogeno per il trasporto consuma molta più energia dei carburanti tradizionali. Altri che temono esplosioni. Vedrai che bello l'idrogeno alla prima esplosione. Lo so. Purtroppo non si fidano. Non sono un ingegnere sufficientemente preparato per dare una risposta. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra poco. 800 24 00 24 anche con i vostri consigli su come disintossicarsi un po' dal telefonino. Stufe, caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, oggi con questo Magic Bus dei Who siamo andati veramente a pescare nella memoria, nel passato. Parliamo di che cosa parliamo? Allora, rispetto alla storia che vi abbiamo appena raccontato, quella della sicurezza sui treni lombardi, qua stiamo abbastanza vicini perché l'obiettivo è lo stesso, garantire la sicurezza. Il luogo è simile, l'autobus, ma il modo è completamente diverso. Siamo a Bitonto, qui il comune ha assunto praticamente quattro mamme disoccupate per fare un controllo antibullismo sugli autobus. E ne parliamo con il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Benvenuti. Siete partiti. Grazie. Benvenuto. Siete partiti da quanto tempo? Da poco tempo. Come sta andando questa cosa, sindaco? Sta andando bene, perché non ho avuto più segnalazioni, perché l'idea è partita da una denuncia di una mamma su Facebook, sul mio profilo personale, in cui mi diceva che i bambini erano stati costretti a scendere in fretta e furia dall'autobus perché altrimenti gli avrebbero tolto lo zaino, e comunque erano ragazzi, diciamo, un tantino vivaci, diciamo così, perché provengono anche da, a volte, da tessuti sociali vivaci un po' cattivelli anche, diciamo, perché quando poi si scaricano su quelli più deboli, sui più piccoli, i ragazzi sanno essere anche molto cattivelli, oltre che vivaci, diciamo, proprio anche le cose come stanno. Quindi dopo questa denuncia ha pensato di agire, di fare qualche cosa. Noi avevamo attivato un progetto che si chiama Cantieri di Cittadinanza, finanziato dalla Regione Puglia. La Regione Puglia è stata brava ad avere l'idea di mettere questi fondi a sostegno per attivare piccole borse lavoro. Noi siamo stati bravi a ideare i progetti per l'impiego. Vedi, si fa i complimenti da solo il sindaco? Bravissimo. No, noi siamo stati bravi nel senso che accogliere questi fondi. Sappiamo che spesso ci sono i fondi, ma già non si fanno i progetti. Mi sembra un sano racconto di sinergia. Bravo. Giusto? Sì, io volevo mettere in evidenza questo, perché si parla tanto di disoccupazione e di tagli ai servizi sociali, di tagli ai contributi sociali. Qui invece abbiamo utilizzato i fondi tagliati per però dare progetti di impiego e quindi dare dei servizi alla comunità. E quindi diciamo, avete assunto quattro donne che vanno sugli autobus, sugli scuolabus, e hanno addosso una pettorina, giusto? Sì, una pettorina del comune di Bitonto, e loro parlano ai ragazzi e spiegano che non bisogna comportarsi in questo modo, come fa il satana e come fanno esattamente alla casa con i propri figli. Ma le chiedevo questo perché siamo ovviamente felici e contenti che le cose stiano andando meglio. Mi chiedevo se non avviene il fatto semplicemente che nel momento che salgono quelle con la pettorina siamo tutti buoni, un po' come quando entra il prof, appena scendono quelle con la pettorina, visto che sono ben riconoscibili, riniziano gli schiaffoni e gli zaini da lasciare su e dover scendere dall'autobus. Sicuramente la pettorina fa il suo dovere, tenga conto che noi con lo stesso sistema abbiamo altre 24 borse lavoro per gli incroci sociali, cioè ci sono le signore che aiutano i bambini ad uscire dalla scuola e quindi indicano gli automobilisti, un po' fanno un po' i vigili urbani. Certo, no, ma io mi stavo chiedendo, perché quello è giusto, fanno i vigili urbani, è giusto che siano riconoscibili con la pettorina. Invece io mi stavo chiedendo se sugli autobus non sarebbe meglio una tecnica un po' di infiltrare delle persone in mezzo, senza essere così riconoscibili, per vedere quello che accade. Delle mamme finto bambina, praticamente. Esatto. Finto bambina. Voi siete pragmatici, a me piace essere pragmatico ugualmente. La legge non punisce, purtroppo, non prevede misure sanzionatorie né per i genitori né per i bambini nel momento in cui i bambini stessi fanno qualche marachella, diciamo, ai propri coetanei, chiamiamoli così. Quindi certo. Nel momento in cui io vado a individuare il bambino, lo vado a denunciare oppure vado a creare un progetto educativo alternativo, vuole dire, è comunque una misura che io posso attivare se qualsiasi bambino, qualsiasi mamma si decida a indicare il nome e cognome del bambino che ha dato fastidio. Certo. Invece la signora col pettorino mi garantisce la calma e la tranquillità necessaria, che è quella certo. Che senta, ma perché proprio sull'autobus avete scelto di intervenire? Perché sono talmente lenti che i bambini fanno tempo a conoscere, diventare amici e poi litigare? Oppure perché no, c'è bullismo, diciamo, c'è ovunque. Diciamo che stanno un po' strettini nell'autobus, quindi vengono più facilmente a contatto. Poi questo progetto nasce da un trasferimento di una scuola in sede centrale della città in una parte periferica, quindi gli autobus e gli scuolabus sono aumentati di 3 linee addirittura solo per conseguenza di questo spostamento. Quindi avete più bambini, più ragazzini, sì, che vanno 256, sugli scuolabus. Certo, un servizio importante. In realtà, ripeto, trovo che il servizio, ma se funziona, ben venga. Però, come stava giustamente dicendo lei, il progetto educativo alternativo dovrebbe forse partire dall'educazione, nel senso che io credo che il bullismo sia un problema molto di educazione e non di punizione o di denuncia o di denunciare il tuo compagno di banco. Però intanto è un passo e ne siamo contenti. Grazie sindaco, grazie, complimenti, buona grazie giornata. Questa è la storia di Bitonto. Anche qua, se vi ha convinto, 800 24 00 24. Chiudiamo con Rodolfo che ci chiama da Bergamo, in un minuto per chiudere. Vai Rodolfo. Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno. Ma niente, io volevo soltanto parlare per quanto riguarda il discorso della Germania, visto che si è detto prima che riguarda i treni, a sicurezza sui treni. Io quando viaggio, e che viaggio sui treni sia dei normali che anche le metropolitane, non ci sono controlli, nel senso che non esiste una, diciamo, obliteratrice o comunque strumenti che possono controllare il biglietto, ma tu nel momento stesso che vieni pizzicato devi pagare la prima volta la multa, la seconda volta vai davanti un giudice. È sempre la Germania quella che ci insegna come dovremmo comportarci, vedi, almeno non è così nell'immaginario ma nei racconti degli ascoltatori. Grazie Rodolfo. Grazie. C'è il GR, ci ritroviamo tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere, ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Siamo partiti, ripartiti belli tosti, con i Nomadi. Salviamo, salve, sono la giustizia. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, vi aspettiamo 800 24 00 24 per stare con noi e anche con Paolo Kessisoglu, che è venuto a trovarci. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Paolo. Per parlarci principalmente di un progetto, un bel progetto che riguarda la giustizia. Che cos'è la giustizia? Con Gherardo Colombo, l'ex PM naturalmente, il 18 novembre insieme anche a Luca, dalle 10 alle 12 un quarto, in diretta tra l'altro satellitare, una sorta di reading, di spettacolo teatrale con dei contenuti per le scuole. Praticamente fate le vallette a Gherardo Colombo, Paolo? Esattamente. Giustizia, domanda che mi sto ponendo in questo momento, visto che mi avete svegliato a quest'ora del mattino, che cos'è la giustizia? Cioè, infrangere le regole e anche infrangermi qualcos'altro? Era un sacro sabato, un santo sabato? Perdonaci. Cioè, ti stai chiedendo se è giusto che se ti abbiamo giusto. Disturbato a quest'ora, giustamente. È giustissimo, no, è giustissimo. Cioè, anche risposto praticamente. No, in realtà gli date una mano a Gherardo Colombo a raccontare la giustizia, perché insomma, a parlare con i giovani, perché lui ha una certa età, e quindi invece voi siete... Ma neanche voi siete tanto... Non siamo più di primo pelo. No, tanto è un evento che è la quarta edizione, sì. Il quale lui ovviamente è la voce autorevole, e noi insomma cercheremo di stare più dalla parte dei ragazzi, diciamo così, visto che nonostante l'età, giustamente come dici tu, siamo comunque, rimaniamo dei fanciulli. Voi farete le domande e lui proverà a dare delle risposte, insomma, sicuramente. Esatto. Senti, però adesso poi lo facciamo subito il momento caramba, lo possiamo fare. Perché qua ci abbiamo. Vai con il momento caramba. Vabbè, dai, Carlo e Paolo si ritrovano, Camera Caffè. Dopo, quando è stata l'ultima puntata che avete fatto insieme? Che anno, ve lo ricordate? Sì. Non si dice, ho già sbagliato la prima domanda. Non si dice, anche perché in realtà Camera Caffè è continuamente in onda, io me ne accorgo, e sicuramente anche Paolo dalle facce delle persone in giro, perché a seconda di che episodio è andato in onda si viene salutati in un modo piuttosto che in un altro. È vero. E poi posso dire un'altra cosa, Paolo: ogni volta che vado in giro con Carlo la gente si ferma, lo saluta, e poi a un certo punto spesso capita che gli chiedano di te e di Luca, come se vi foste visti ieri fino all'altro ieri, perché hanno visto la puntata. Bisogna dirgli che non vivete tutti e tre assieme. No, ma credo che sia la forza del programma, per questo mi sorprende, mi stupisce il fatto che, siccome insomma, le puntate non sono certo di ieri, ora sento svelare l'anno, l'ultima puntata fatta, è veramente sorprendente il fatto che siamo lì, ci siamo ancora, e sembra che sia veramente l'ultima puntata che sia stata fatta il giorno prima. Quindi questo è un dato oggettivo che ci sta facendo riflettere, insomma, e chissà che non ci siano particolari sorprese in futuro. Esatto. Ma com'era lavorare? Cioè, questa è in realtà una carambata. Adesso ovviamente appena chiudiamo qui io cominciate a lavorare. Chiamerò Paolo per dirgli: ma come? Devo sapere assolutamente questa cosa. Lavoriamo alla nuova serie. Senti, ma com'era lavorare in serie? Cioè, per esempio, no, chi era il più ritardo? C'era uno che arrivava sempre tardi tra voi? Devo dire no. Più che i ritardi, era, come dire, essendo una cosa che non si poteva montare. Sì. Parlo in volgare, si faceva tutto di fila, era molto teatrale. La cosa che insomma ci colpiva di più era l'ansia con la quale alcuni degli attori, soprattutto uno, esatto, è verissimo. Non era Carlo, era Renato Liprandi, che faceva il direttore dei Marini. L'ansia con cui arrivavano quando avevano l'ultima battuta dell'episodio. C'erano praticamente degli stracci pieni di timore di sbagliarla, perché sapevano che poi la nostra simpatia sarebbe, li avrebbe accompagnati per il resto della giornata. Però va anche detto che questa è una delle forze del programma, perché il fatto di praticamente come se fosse un programma in diretta, live, appunto come se fosse teatro, non potendo mai tagliare, non potendo mai montare, andando tutto di fila, si recupera anche quella tensione che poi è la tensione del palco. Beh, assolutamente sì, come dici tu, in realtà era anche questo quello che si vedeva. Quindi, ma, assolutamente. Senti, ma invece chi era il più rompiscatole di tutti, quello che proprio, cioè, quello che, non, che fa, ne sbagliava sempre una? C'era qualcuno che si distingueva per questo? Ma vuoi che dica Carlo? Esatto, hai capito finalmente. Sì. Ma vabbè, Carlo era sicuramente oggetto di qualche vessazione. Ma soprattutto certo, quando viaggiava con il suo skateboard, perché sono monopattino, perché non era capace di andarci, e ha rischiato anche di spaccarsi la faccia contro una macchinetta un paio di volte. Verissimo, c'è nel DVD, c'è nel DVD. Questo è il vero retroscena, allora. Quando mi schianto contro la macchinetta. Sì, peraltro c'è anche. No, però sono stati anni molto molto molto divertenti. Senti Paolo, tu hai qualche minuto per stare ancora con noi? Io ho da fare le informazioni sul traffico, o le faccio adesso e continuiamo dopo, oppure continuiamo a parlare e stiamo ancora qualche minuto insieme. Se ci dai qualche minuto faccio subito le informazioni. Io vorrei che ti addormentassi, perché hai detto che ti abbiamo svegliato, sei un po' arrabbiato o che tu te ne andassi. Io purtroppo ho fatto un po' la parte, ma ahimè dormo poco, quindi ero già sveglio. Adesso parliamo anche del tuo stile di vita, perché è importante, chi ti segue lo sa, sei vegetariano, vai in bicicletta, sei anche un modello. Noi di Si Può Fare poi non potevamo naturalmente non sottolinearlo. E io invidio tantissimo tutto ciò. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora, di nuovo insieme a Paolo Kessisoglu. Voglio chiederti ancora una cosa, Paolo, sullo spettacolo che ci sarà il 18 novembre con Gherardo Colombo e Luca, sulla questione della giustizia. Che cos'è la giustizia? Perché, insomma, è un tema, uno può sembrare un tema molto alto, così magari lontano dai ragazzi. Invece io sto crescendo due bambine, una, la più grande, ha 5 anni, Viola, e ho riscontrato che tra i bambini il tema della giustizia è caldissimo. Le ingiustizie non vengono proprio tollerate. Tu pure sei papà. Cosa ti aspetti da questi ragazzi, anche parlando di giustizia? Mamma mia, che domandona. No, non saprei, ma credo che sia un valore che va al di là delle regole scritte, ovviamente, che non si può insegnare, credo, al di là di alcuni momenti particolari della vita in cui puoi sottolineare dei comportamenti, delle cose, ma semplicemente credo che si respiri in casa quello che... Ci vuole l'esempio, tu dici. Il padre e la madre, banalmente ci vuole l'esempio, o comunque, insomma... Vedendo, sono anche energie che si sentono semplicemente, quindi spero di essere un'energia positiva in questo senso. Cioè, tu dici, io già mi cerco di concentrarmi su educare. Tu hai una figlia, credo. Sì, una. Di educare lei, cioè, quindi diciamo, quantomeno con l'esempio. E mi sembra già un bello sforzo, posso testimoniarlo, io ne ho due, una grande, una piccola. È già abbastanza. Cioè, se si riuscisse già a fare bene questo lavoro qua, del papà, sarebbe già metà della strada sarebbe fatta. Senti, tu dicevamo, anche questo stile di vita che testimoni anche con delle interviste, fai vedere quando vai in bici, che sei un salutista, tu e tua moglie siete vegetariani, vero? Sì, siamo vegetariani, ma voglio un po' sfatare questo mito. No, perché adesso ma non ti devi difendere, va benissimo. Cioè, anzi, guarda, non è un difetto per noi, ecco. Anzi. No, nel senso che semplicemente mi ho scoperto questa. Credo che dipenda dall'età, a una certa età, o si incomincia a esagerare, oppure si rintrona e non si fa altro che fare sport e andare in giro a sudare. E quindi io mi diverto a andare in bicicletta, andare sì. a, complicare fare queste cerchi cose di recuperare un po' tutte le schifezze che hai fatto quando eri più giovane, sì, ecco, è chiaro, il classico colpo di testa del quarantenne e confermo, esatto. Insomma, arriva tu, a parte a Carlo tipo... che non gli arriva mai questa cosa, a tutti gli altri succede, insomma. No, beh, non è vero, Carlo insomma, è cambiato molto in questi anni, quindi anche lui, insomma, al di là del personaggio che in qualche modo... Non vorrebbe ammetterlo, ma è cresciuto anche lui. È verissimo, insomma. Non si vede in radio, ma avendo perso 35 kg, condivido quello che stai... No, e soprattutto una cosa che invece volevo dire, che secondo me l'attenzione per l'alimentazione, al di là di dire sono vegetariano, sono totalmente vegano, qualunque cosa sia, la cosa che mi sembra importante è anche il fatto semplicemente di essere attenti. Racconto sempre, visto che prima parlavamo di camera caffè, comunque sia, il fatto che tu abbia un'attenzione all'alimentazione, in realtà ne guadagnano tutti, l'abbiamo visto con il catering di camera caffè, perché nel momento in cui si mangiava, per il fatto che ci fosse qualcuno, e nella fattispecie sì, Paolo, che fosse attento e che voleva mangiare determinate cose, non altre, questa cosa qua in realtà poi ricadeva su tutti nel senso positivo, perché l'attenzione, al di là di tutto, anche se poi decidi che una volta al mese vuoi mangiare la bistecchina, va bene, non credo che sia quello il problema. Quindi ma è già il fatto così di un'attenzione. Anche quando facevate, beh, un'attenzione, caffè. Sì, sicuramente. Sì, diciamo che è stato un problema che ci siamo posti mia moglie quando stava per nascere nostra figlia, e quindi è lì dalla stessa età di nostra figlia, da 13 anni, e quindi già la camera caffè incominciavo a togliere delle cose, quindi sì, sicuramente... Quindi è una cosa che è più che fate più per la vostra salute che non per una questione etica nei confronti degli animali, rispetto ai diritti... Sicuramente più la prima, sì, la sicuramente più la prima. Senti, a proposito invece di bici, tu sei uno che va in bici, l'hai detto, ti voglio far sentire, perché non è un bel momento a volte per i ciclisti, sono un po' bistrattati in alcune città. Sentiamo questa notizia qua. Se vuoi andare per imparare senza fretta, non devi più seguire i pedali, il manubrio, perché... Allora, a Venezia il sindaco Brugnaro ha imposto ai turisti ciclisti di portarsi, di non portarsi più la bici a mano, nemmeno portarsela a mano lungo le stradine, lungo i canali. I ciclisti della FIAB gli hanno risposto: allora mettici un bel parcheggio alla stazione dei treni a Piazzale Roma, così le lasciamo lì e andiamo in città a piedi. Ora uno potrebbe già dirsi: cosa ci fa un ciclista a Venezia, perché già sembra una perché roba... a Venezia è vietato andare in bicicletta comunque, la nuova regola che non li puoi portare neanche a mano, ed è incredibile, perché se tu vivi e hai la bicicletta e vuoi andare fuori Venezia con la bicicletta, come fai? È un accanimento. Allora, se non ti piace Venezia, te la dico una su Milano, Paolo, di notizie che riguardano le biciclette: la protesta dei commercianti per la nuova pista ciclabile di Corso Venezia, perché dicono che la gente va a fare shopping in auto da quelle parti e non in bicicletta. Tu le usi le ciclabili? Vai a fare shopping come vai a fare shopping? Ma mi piacerebbe usarle, diciamo che uso quelle poche che ci sono. Poi sicuramente il fatto di non avere un disegno a 360 gradi pone anche questo tipo di problematiche. Cioè, a volte si fanno le piste ciclabili, ma non ci si pone il problema dei negozi, insomma, per noi è un po' un inizio. Quindi qualche ragionetta ce la possono avere anche i commercianti, tu dicevi, cioè bisogna cercare di essere un po' equilibrati, fare... Non conosco il problema, ma credo di sì, nel senso che fare le piste ciclabili adesso è anche un trend, anche No, fare bella figura, però non... Bravo, per poter problema, segnare, poi abbiamo fatto tot chilometri, poi magari la pista ciclabile è larga un metro, nessuno ci va e gli automobilisti si sono incavolati fanno, perché vedono, ma come... Esatto. Eccetera. Però, insomma, credo che potrebbero avere le loro ragioni, sicuramente. Comunque, ti arruoliamo nella nostra equipe di ciclisti che sostengono con grande forza la bicicletta, e quindi magari anche su questo ci potremo risentire. Intanto voglio ricordare l'appuntamento, perché è un appuntamento importante, quello dello spettacolo con Gerardo Colombo, il 18 novembre, c'è ancora tempo per le scuole. Sì, è un evento più che uno spettacolo. Sì, bravo, un evento, giusto. È la sua quarta edizione, quindi tra l'altro è un dato che forse non avevamo ripetuto, che è possibile iscriversi fino al 10 novembre, peraltro, quindi tutti quelli che insomma, si collegheranno in diretta satellitare, che sono più di 100 cinema, possono farlo ancora la settimana prossima. Ecco. Bene, giusto, sì. Questo, scusami, è giusto ricordarlo, nel senso che lo spettacolo è, l'evento è a Milano, alla Fabbrica del Vapore, ma in diretta satellitare sarà in 100 cinema, quindi in qualunque, esatto, città voi siate potete ancora iscrivere il vostro istituto, chiedere alla vostra scuola di iscrivervi a questo avvenimento, esatto, e davvero, il giorno in diretta guardarlo nel proprio cinema, non è che dovete venire a Milano. Esatto, dalle 10 alle 12:15. E quindi se siete interessati, noi saremo lì, vi aspettiamo. Digitate su Google che cos'è la giustizia, la fondazione di Gerardo Colombo sulle regole, e trovate tutte le informazioni. Paolo, grazie. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Enzo, amma cagna. Non essere capito, e chi si scandalizza è banale. Confuso sulle aper, a riconosce cose. Confuso sulle aper, a riconosce cose. Ogni uomo nasce libero e va alla deve diritto e dignità. Montagna con montagna non si incontrano mai. Montagna con montagna non si incontrano mai. E scorre più nella vena forte la morte che anela nella notte, quando gli incubi incubano parole mute del Ramonde, sudore della fronte mi sveglio, come non c'è nessuno sì meglio, a parte la mia paura intendo, io non ho l'anima pura, la invento, so che l'amore è libertà, ma in una vita dura cosa farne, meglio la dittatura della carne, c'è chi trova sublime patire da grande, penso che sia meglio partire ed andarmene, peccato ne seguo la scia come questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è A mamma di Enzo Avitabile con Caparezza, canzone che ci è stata suggerita da Miriam da Cantù, perché vuol dire che dobbiamo cambiare. Come sapete, noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei compositori, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e sentite una canzone nella quale vi sembra che sia spiegato molto bene il concetto di Si può fare, vi chiediamo di comunicarcela, di farcelo sapere, che così noi la facciamo sentire, la mettiamo sul sito e ve la dedichiamo. Potete inviarci i vostri Si può fare in musica, la nostra mail si può fare @radio24.it, oppure sui nostri profili social su Facebook si può fare /radio24, oppure su Twitter @si può fare24, oppure sui nostri account personali, il mio è @carlo gabardini e c'è anche il mio @ale maurizi. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, questa mattina siamo partiti dalla sicurezza sui treni della Lombardia, che promette di mettere più vigilantes armati privati, e noi vi abbiamo chiesto se questa soluzione vi convince oppure no. Tra poco giocheremo con il crowdfunding, quindi le storie di finanziamento dal basso, vi chiediamo se volete essere giurati per giudicare voi due progetti che mettiamo a confronto questa mattina. Claudio ci chiama da Cuneo, buongiorno, benvenuto. E tra l'altro vi chiediamo, ascoltatori, anche i vostri suggerimenti per disintossicarsi dai telefonini. Dai telefonini, che hanno superato ormai i computer, i PC da tavolo, per quanto riguarda il traffico su internet. Claudio, vai. Sì, buongiorno a tutti. Sì, allora, io ho acquistato un telefonino con due schede telefoniche, quindi una è quella aziendale che uso per professionalmente, diciamo. L'altra è quella che ho deciso di usare per la vita privata. E come le gestisci? Allora, sei sempre lì a spostare la scheda? Da... No, ci sono due schede inserite nello stesso perfetto, telefonino. Perfetto. E quindi posso ricevere le chiamate sullo stesso telefono? Sì. E posso decidere quale delle due escludere. E normalmente, però tu così hai raddoppiato i problemi, forse, no? Cioè, come, scusi? Però così forse hai raddoppiato i tuoi problemi. Hai due schede, quindi avrai doppie telefonate, doppio di tutto, o no? Cioè, ho scoperto che c'è la possibilità di escludere una delle due, quindi okay. Durante il lavoro escludo quella privata, per esempio. Perfetto, quindi l'altra, sì? Pardon. Sì. L'altra possibilità che ho utilizzato è quella di eliminare le notifiche sonore. Quindi decido io quando andare a vedere i messaggi WhatsApp, per esempio. Quello anch'io, ormai basta, le notifiche sonore, a parte la suoneria bassa. Sì, sì, sono d'accordo. Va bene, Claudio. E succede mai che ti dimentichi? Dimentico di escludere quella privata? No, che ti dimentichi, quindi non lo guardi, poi qualcuno ti dice: ma te avevo detto vieni alle 21. Ho deciso che se è una cosa urgente mi chiamano sul telefono direttamente. Oh, perfetto, perché però infatti è questo che va comunicato ai propri interlocutori dicendo: guarda, io non, per esempio, non guardo le mail nel weekend, piuttosto che io non ti rispondo ai WhatsApp dopo mezzanotte. Non so, ma andrebbe comunicato. Sì, non è un po' difficile. Ci sono talmente tanti gruppi WhatsApp che comunicarlo a tutti è possibile. Claudio, ma non è difficile distinguere quelle che sono le telefonate di lavoro da quelle che sono le cose personali, avere due linee così separate? Perché per me, per esempio, non è così facile. Io non riuscirei a fare questa distinzione. Tu sei riuscito? Io sono riuscito, ma perché ho comunicato il numero privato agli amici e quindi per me è stato più facile forse partire già così. Chi ha solo un numero effettivamente può avere... Ormai c'è una commistione tale, per cui va bene. Grazie Claudio, se vuoi rimanere con noi per fare il giurato di Crowd Me Up, ci risentiamo tra poco. Lorenzo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, saluti a tutti. Io volevo intervenire perché sì, prima sentivo parlare del trasporto idrogeno riguardo ai treni. Ecco, io non sono un esperto, quindi è solo un dubbio quello che pongo, e cioè la produzione di idrogeno comunque deriva da utilizzo di combustibili fossili. Sì, momento tecnologia. Qua noi facciamo un passo di lato perché non ne sappiamo quasi niente. Io anche non ne so quasi nulla, è solo una cosa... Ci ha detto che è un esperto. È un esperto, hai detto. No, non sono un esperto. Sono un ignorante che si pone un dubbio di buon senso. Sì. Ovvero, siccome so che la produzione di idrogeno avviene con l'utilizzo di energia e prevalentemente con l'utilizzo di combustibili fossili, in realtà un qualunque mezzo di trasporto idrogeno non è vero che non inquina. Inquina nel luogo di produzione dell'idrogeno, non inquina nel luogo di utilizzo del mezzo. Giusto, bisogna vedere come questo idrogeno viene prodotto. Giusta immagino osservazione. Immagino che ci siano delle economie di scala nella produzione di idrogeno rispetto a un'automobile, per dire, che consuma combustibile fossile man mano che si sposta. Sì. Però comunque inquina. E per quel che riguarda i treni soprattutto, siccome i treni vanno energia elettrica prevalentemente, l'energia elettrica può essere ottenuta anche... Però scusa Lorenzo, qua ti fermo, perché in realtà la notizia che abbiamo letto riguarda treni in Germania che andranno a idrogeno e andranno a sostituire treni che prima andavano a diesel. Quindi è questo l'investimento che viene fatto, quindi il confronto va fatto con il diesel e non con i treni elettrici, perché ci sono ancora treni che vanno a diesel. Io infatti l'ho chiesto anche all'assessore Lombardo e poi lui ha risposto che insomma più o meno sarà un mix di cose, non è stato chiarissimo su questo. Lorenzo, resta con noi se vuoi anche tu per fare il giurato di Crowd Me Up tra poco. 800 24 00 24, la mettiamo alla notiziola sui rifiuti, ce l'abbiamo, perché noi su questa cosa qua dobbiamo sempre tenervi aggiornati. Vai. No, non ce l'abbiamo. Allora andiamo in pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua di nuovo con la nostra rubrica Crowd Me Up, crowdfunding, le storie di finanziamento dal basso. Noi lo sappiamo, ci sono due anime, una seria che cerca finanziamenti per progetti molto importanti, un'altra più ironica, più ludica, dove a volte si gioca anche un po'. Oggi ve le presentiamo tutte e due, un progetto serio e un progetto più divertente. Allora, cominciamo intanto a presentare i nostri giurati che ci danno una mano per vagliare i due progetti di oggi. Claudio da Cuneo, buongiorno Claudio. Buongiorno, ben ritrovato. Lorenzo da Milano. Sì, buongiorno. E poi forse abbiamo anche il terzo giurato? No, ne abbiamo due per ora, per stamattina. Allora, cari giurati, mantenete la concentrazione. Presentiamo il primo progetto, vai. Allora, il primo progetto si chiama

E allora vogliamo parlarvi di un appuntamento che riguarda la montagna. Cime è un evento che si tiene a Milano, è iniziato e si chiude proprio oggi, nella giornata di oggi, quindi se volete andare a seguire qualche appuntamento, per esempio l'incontro al quale sarà presente anche Giuliano Gabrini, buongiorno Giuliano. Buongiorno, grazie per l'invito. Giovane imprenditore, giovane poi insomma, in Italia si è giovane almeno fino a 50-55 lui, anni. Quindi è giovanissimo. Lui è giovanissimo, veramente. È imprenditore emiliano dell'azienda agricola Le Cornelle, che va a raccontare la sua storia, di come si possono rilanciare le cime italiane, gli Appennini, le montagne, anche con delle attività economiche originali e che riguardano i giovani. Tu che cosa ti sei inventato, Giuliano, in realtà? Sappiamo, recuperando un'antica tradizione della tua famiglia. Esattamente, sì. La mia è un'azienda agricola semplice, diciamo, perché è un allevamento ovino di una razza ovina di estinzione, che è la Cornella Bianca Reggiana. È autoctona della provincia di Reggio Emilia e attualmente ridotta a circa 350 capi censiti dal registro regionale. Noi, già che esiste il registro regionale, diciamo che cioè il registro regionale censisce quante di queste pecore, hai detto, scusa? 350 attualmente, grosso modo, poi numero più, numero meno, però siamo su quella cifra. E quante sono le due? Il registro che diciamo tutela le razze di estinzione dell'Emilia Romagna. E le mie sono 85. Ah, ok, quindi un bel gruzzo. Una ventina di agnelli nati in questi giorni, quindi una buona quota, diciamo, della popolazione complessiva. Una razza che era a rischio di estinzione, no? E che particolarità ha questa esatto, razza? Esatto, questo mi incuriosiva, perché ho letto che vuoi fare formaggi, vuoi produrre, e volevo capire se noi riconosceremo il sapore diverso del pecorino fatto da una pecora cornella. Questo lo spero, diciamo. Per ora stiamo portando avanti delle analisi con l'Università di Parma, grazie a una tirocinante che esista anche in azienda, che ci fanno ben sperare sotto questo punto di vista. La Cornella è una razza a triplice attitudine, quindi sia da lana che da latte che da carne, ed è molto rustica e adattabile ai territori dell'Appennino, cosa che per noi è estremamente positiva dal momento che comunque ci troviamo ad una quota non altissima, ma già difficoltosa da un punto di vista tipo quanto? Oltre 700 metri. Però da carne aspettiamo, ce n'è solamente 350, aspettiamo a mangiarcele. No, infatti la nostra priorità è quella di lavorare sul latte, perché quello sarà poi il core business aziendale, quindi perfetto. Formaggi, pecorino fresco, stagionato, ricotta e tutto quanto commercializzato poi nel piccolo punto vendita dell'azienda. Ma come si vive a fare questo lavoro, Giuliano? Cioè, non è sicuramente una cosa da tutti, insomma, mettersi a fare l'allevatore di pecore. Tu sei un ragazzo, avresti potuto magari andare a fare qualcos'altro in città, studiare, fare qualche altro lavoro. Invece? Ma in realtà si vive benissimo, perché è costantemente in mezzo alla natura, in un territorio meraviglioso. Non so se conoscete l'Appennino Reggiano, ma merita davvero un'occhiata. E chiaramente non è una scelta, diciamo, semplice per certi versi, lo è per altri. È più semplice quando si ha una famiglia a supporto, quando si può lavorare in tanti sullo stesso progetto. È il mio caso, perché ci sono io, ma con me c'è mio fratello, più giovane di me, a 20 anni, e mio padre, che ci segue costantemente tutti i giorni e ci aiuta nel lavoro aziendale, quindi ci si riesce anche a coprire le spalle a vicenda da questo punto di vista. Senti, ma quando sei lì sull'Appennino Reggiano, bello tranquillo, che stai facendo le tue cose, eccetera, eccetera, hai il telefonino con te? Ah beh, questo, certo. Questo sì. C'è campo lì, sì, o no? Sì, poco, però sì, diciamo. Quindi tu non hai problemi di... Siamo connessi. Però non hai problemi di affaticamento da eccesso di utilizzo dello smartphone, o sì, magari stando lì da solo a un certo punto ti annoi e continui a whatsappare con gli amici. Scusami, non ho colto bene la domanda, perché sono in treno e ho il segnale un po' disturbato. Oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori quali sono le loro strategie per disintossicarsi dalla iperconnessione della quale siamo tutti affetti. E ci chiedevamo, forse uno dei trucchi è trasferirsi nell'Appennino Reggiano, esatto, dove abbiamo appena scoperto che non c'è moltissimo campo. Ma a parte questo, hai delle altre strategie, usi delle altre strategie per non essere troppo connesso? No, in realtà no, anche perché per certi versi i nostri sono spazi che la solitudine la premiano e la consentono a sufficienza, per cui l'essere connessi non credo sia necessariamente un male, anzi per certi versi è un modo per rimanere ancorati alla realtà, anche alla realtà della società a cui normalmente non saresti ancorato. Quindi no, in linea di massima no, anzi, cerchiamo di rimanere il più possibile vicini a quello che è il mondo civile. Senti, ma c'è stato un momento nel quale stavi per intraprendere una strada completamente diversa e poi sei tornato sui tuoi passi, oppure sei sì, questo sicuramente. Io arrivo da un percorso universitario legato all'umanismo, io ho studiato storia, studio storia tuttora, e diciamo che quello poteva essere un ipotetico percorso diverso, molto diverso rispetto a quello che ho intrapreso. Però poi diciamo la volontà di rimanere nel territorio che sento mio, a cui sento di appartenere, ha prevalso su quelle che potevano essere anche le scarse, per certi versi purtroppo, possibilità che potevo offrire un percorso universitario di questo anno. Anche questo va detto, nel senso che forse è uno di quei casi in cui uno dice forse non è il pezzo di carta che conta, perché lavorare come storico non credo che sia particolarmente facile oggi come oggi, e invece forse conta molto di più saper gestire delle pecore. No, lo dico sul serio, lo dico con anche un filo di invidia. Speriamo che possa essere più utile, speriamo che possa portare un valore a noi e al territorio in cui ci troviamo. Intanto a te con questo lavoro e alla tua famiglia. Grazie Giuliano, complimenti, bocca al lupo Giuliano. Grazie. Cabrini. Grazie a voi. Oggi grazie sarà a raccontare la sua storia a Cime, questo evento che si tiene a Milano per raccontare le storie di montagna. E questa, insomma, era una delle tante storie, perché tante volte uno può pensare che per fare questa cosa bisogna essere in qualche modo predestinati, no? Altrimenti non può mai venire in mente di fare un cambio di rotta come questo. Invece Giuliano ci ha pensato, e quindi è una scelta meditata. Vero. E ha detto anche, anzi, qui si sta benissimo, no? Sì, bene, ha detto un'altra cosa bella, che è il fatto che è più facile nel momento che hai una famiglia e che non sei da solo, perché proprio mettersi da solo a fare tutto questo mi sembra molto difficile. Nel momento che hai anche un fratello, un padre. Avevano l'allevamento di famiglia, no? Per cui uno può dire, ma lui è partito avvantaggiato. Sicuramente, però un allevamento che avete sentito stava quasi per chiudersi, perché non c'era ricambio generazionale. Quindi lui ha dovuto rilanciare, rimettersi in pista e scommettere del suo, e quindi complimenti. E questa è una delle tante storie che vi raccontiamo di questo filone qua. Siamo in chiusura, ci sarebbe Andrea da Roma, non so, Andrea, però abbiamo pochi Buongiorno. Secondi cosa vuoi? No, sono rapidissimo, sì. Volevo sapere relativamente alla app Yourbeat, come si collega questa app del telefonino al proprio corpo? No. Ci sono altri dispositivi che vanno... No, sì, perché non è un'app per telefonini, ma è un'app per smartwatch, ovvero per gli orologi. Quindi ci vuole quella roba lì. Perché giustamente, è molto giusta la cosa che chiedi, è perché l'orologio già sta vicino al polso, esatto. E quindi attaccato al corpo. Bene, siamo in chiusura. Un ringraziamento a tutti, ad Andrea Piana, autore di questo programma, insieme a noi, a Claudia Schiattone, autrice di tutto, quasi anche delle nostre vite, Peter Bescapè in regia. Noi ci sentiamo domani, Carlo, vero? Sì, signore, aspetta. Certo che sì. Domani, domenica, ci ribecchiamo. Ciao a tutti. Da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini. Ciao.